get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Oh, buonasera, buonasera a tutte, ben ritrovate e benvenute alla 175esima trasmissione di Una Calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17 sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa appunto, oppure collegandosi sul nostro sito internet alla pagina www.clrbp.it cliccando sulla radio e di nuovo cliccando sull'icona in diretta. Oggi qui in studio siamo io e Rosina. Ciao, buonasera a tutte. E vi ricordiamo che se volete parlare con noi potete telefonare qui in radio allo 06 49 17 50, oppure per chi ama l'email può scrivere una mail appunto al nostro indirizzo che è contatti@clrbp.it. Allora, noi stasera di solito diamo anche l'opportunità di scrivere degli sms, però ci siamo dimenticati, diciamo, si arrabbierà Caterina e niente, ci siamo dimenticati il cellulare a casa, però voi potete scrivere i messaggini al nostro cellulare della redazione che è il 338-4146-682. Verranno letti, insomma, stasera. Esatto. Però se volete farci sentire la vostra presenza, vi invitiamo invece caldamente a vincere la timidezza e a telefonarci qui in radio, a me o Rosina, allo 06 49 1750. Che altro dire? Buon anno, buon anné. Buon anné. Happy New Year. Happy New Year. Lo sai, tipo in tedesco? Quello. No, quello è passato, per fortuna. Gute neue Jahre, che ne so. Brava, bravissima. E per voi abbiamo scelto quindi come buon augurio questa canzone che mi sembra molto seria, no? Serissima. Bella. Quanti ricordi, Annalisa, vero? E vabbè, l'età avanza. Tu non eri ancora nata. Esagerata, vabbè, allora la musica era un po' così, un po' poco seria, diciamo, però gli argomenti di cui vi parleremo oggi invece lo sono seri, e come potete immaginare naturalmente parleremo della doppia manifestazione che si terrà, una a Milano e l'altra a Roma. Quella di Roma si terrà appunto il 14 gennaio, e il titolo è Tutti in Pax, mentre appunto sui patti di civili di solidarietà, com'è che se lo sai che mi si inciappa la lingua stasera su questa cosa. E la manifestazione di Milano invece sarà il titolo sarà Usciamo dal silenzio, e partiamo naturalmente dalla manifestazione di Milano a cui abbiamo aderito. Si tratta di una manifestazione del Movimento delle Donne che verte sul tema dell'autodeterminazione femminile, che come ben sappiamo è stata così minacciata ultimamente da vari attacchi di ordine politico, ecclesiale, eccetera eccetera, e appunto in merito alla legge 194. Cominciamo con il leggervi il manifesto ufficiale della manifestazione, che si intitola La libertà femminile all'origine della vita. Le organizzatrici dicono: il 14 gennaio saremo in piazza perché c'è un evidente ed insidioso attacco alla 194, una legge che funziona, autorizzando l'aborto senza favorirlo, proteggendo la salute delle donne e diminuendo drasticamente il numero delle interruzioni di gravidanza. L'indagine voluta dal ministro Storace, le proposte di guardiani della morale e di dissuasori nei consultori, i ripetuti violenti attacchi delle gerarchie ecclesiastiche all'autodeterminazione, oltre a penalizzare la professionalità degli operatori, rappresentano una intimidazione nei confronti delle donne, soprattutto delle giovanissime e delle straniere. Siamo convinte che la nascita di una nuova vita parli della relazione tra i sessi e della responsabilità maschile nella riproduzione e nella sessualità. Dagli uomini non vogliamo solidarietà, ma il riconoscimento di essere parte in causa. Chiunque si arroghi il diritto di imporre una gravidanza non desiderata in termini di divieti, aiuti e controlli, considera le donne una categoria sociale a potestà limitata. Difendere la 194 significa guardare più lontano, alla libertà di donne e uomini di decidere di sé, delle proprie vite e di quelle a venire. Dello stesso orizzonte di libertà, in cui includiamo il concetto fondamentale di laicità dello Stato, parla la manifestazione nazionale di Roma Tutti in Pax, con la quale abbiamo costruito un ponte ideale. E non possiamo dimenticare che se l'aborto resta una scelta mai desiderata, ma talvolta necessaria, la libertà di progettare la propria vita, e se lo si desidera di diventare madri, è messa a rischio dalla incertezza e dalla precarizzazione del lavoro. Non vorremmo che la precarietà diventasse il contraccettivo del futuro. Dopo il 14 gennaio ci saremo ancora per chiedere alla politica impegni preelettorali su questi temi e per continuare il lavoro di rete attraverso il sito www.usciamodalsilenzio.org e le assemblee autoconvocate. Quindi tutte in piazza per uscire dal silenzio a Milano il 14 gennaio 2006 alle ore 14. Il corteo partirà da Piazza Duca d'Aosta alla stazione centrale e arriverà a Piazza del Duomo. Per avere informazioni potete consultare il sito www.usciamodalsilenzio.org. Vi ricordiamo inoltre che la Casa Internazionale delle Donne di Roma sta organizzando un treno speciale per Milano. Quindi chi volesse partire da Roma per raggiungere appunto Milano e partecipare alla manifestazione può avere informazioni, comunque dare la propria adesione allo 06 6840 1720, lo ripeto, 06 6840 1720, oppure consultare, scrivere scusate all'indirizzo ccidonne@tiscali.it. Annalisa, tu vai a Milano? No, a Milano no. Noi invece andremo copiose in massa. Perfetto. Allora, poi mi racconti allora. Allora, per voi partiamo invece con un altro pezzo musicale. Ho scelto Diana Krall con Winter Wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the manor we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid of plans that we made, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonder shoe, but didn't they? Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Allora, le compagne giustamente ci fanno presente che partiranno anche 4 pullman completamente gratuiti la mattina del 14 alle 6.30 dalla stazione di Castro Pretorio, e per le adesioni potete sempre contattare la Casa Internazionale delle Donne allo 06 68 40 1720, ma dovete affrettarvi perché i posti sono limitati. Bene, e allora io invece vi leggo il comunicato del Forum delle Donne di Rifondazione Comunista, che ha aderito appunto alla doppia manifestazione dal titolo Libertà del Vivere e del Convivere. Allora, il prossimo 14 gennaio segnerà una data importante nell'agenda pubblica dell'Italia. Sarà una giornata dedicata, come è stato votato in un'assemblea di 2000 donne, alla costruzione di un ponte di libertà tra Roma e Milano, ma sarà anche il giorno della convivenza tra soggetti politici affini. Due manifestazioni importanti, una a Milano del Movimento delle Donne, che lancia il loro rifiuto nei confronti delle manipolazioni regressive sulla loro vita e sulla loro sessualità, un'altra a Roma, dove si svolgerà la manifestazione nazionale per la richiesta dei PACS, i patti di unione civile, che sono possibili in quasi tutti i paesi europei occidentali, ma che in Italia trovano l'enorme ostacolo dell'asservimento della politica istituzionale alle gerarchie ecclesiastiche. Lo stesso asservimento che intende rimettere le donne sotto tutela, con la modifica dell'operatività dei consultori. Entrambe le manifestazioni appartengono dunque alla nuova frontiera della politica del vivere, contro la quale si stanno esercitando antichi poteri forti. Per questo occorre reagire in modo nuovo, con molta fantasia, evitando le vecchie formule della politica istituzionale, che spesso si è dimostrata inadeguata a risolvere la complessità dei problemi. Per lo stesso motivo, il fatto che entrambe le manifestazioni per caso siano state convocate nella stessa data è diventata una grande opportunità per costruire una giornata dedicata a quella libertà del vivere e del convivere che in Italia appare costantemente sotto attacco. Il comunicato congiunto dei diversi soggetti che hanno promosso le due iniziative coglie appieno l'occasione ed è un impegno molto importante. La libertà delle donne nello spazio pubblico è spesso stato oggetto di aggressione nel corso degli ultimi mesi di quest'anno. Dalla triste vicenda della valanga azzurra contro la rappresentanza femminile nella politica istituzionale alle pericolose e strumentali iniziative sulla legge 194 e sul diritto di scelta di maternità. Allo stesso modo, il grande operatore biopolitico costituito dal clero e dall'associazionismo confessionale, dopo la pseudovittoria della legge sulla procreazione assistita, tenta di schiacciare ogni possibile nuova forma di convivenza tra persone al di fuori della famiglia patriarcale. È quindi giusto e importante riprendere a manifestare per riappropriarci delle parole politiche che mancano nel dibattito contemporaneo sulla difesa della vita. Da anni infatti il movimento delle donne e quello femminista condividono la difficile battaglia per forme nuove di esistenza e di cura attraverso i PACS. Adesso l'associazionismo gay e lesbico e il fronte laico hanno la possibilità di mostrare la loro attenzione alla libertà delle donne. Insieme possiamo costruire un'alternativa politica alla centrifuga mediatica che ci inonda e toglie spesso spessore alla nostra esperienza umana, impedendoci un dialogo approfondito sul salto di civiltà ormai necessario per tutta l'umanità. Quel ponte fra Milano e Roma è dunque una dimostrazione di come l'autonoma determinazione delle donne possa incontrare persone altrettanto consapevoli e capaci di nominare il proprio sapere sessuato, quindi parziale e non universale, per costruire nuove forme di convivenza e un diverso concetto di libertà, quella dell'essere e non dell'avere. Spendiamo dunque il 14 gennaio per un sogno nuovo che esprima tutta la ricchezza del possibile contemporaneo. La giornata della libertà del vivere e del convivere. E tra le firmatarie leggiamo varie femministe, no? Uh-huh. E, diciamo, ci sono anche le politiche, c'è anche Titti De Simone, Bianca Pomeranzi, Maria Rosa Cutrufelli, Edda Billi e tante altre. Lea Melandri, Elettra Deiana, insomma ce ne sono diverse, moltissime, sì, sì. Molte altre stanno ancora mandando la propria adesione, altre ancora non sono riportate. E... Tocca andare veramente, sì, tocca andare. Cioè, andate, prenotate il segnale forte. Il treno, prenotate, sì, il pullman. Sì. Prenotate la vostra auto oppure potete andare in bicicletta col pedalò. Sì, sì. Insomma, vedete un po' voi. Vogliamo mandare un po' di musica prima di continuare? Sì, oppure... sì, direi di sì. Io volevo soltanto ricordare a tutte le nostre gentili ascoltatrici che stasera le due cape umbrella, come si dice a Napoli, ovvero sì, Annalisa e Rosina, presenti alla trasmissione, si sono dimenticate il cellulare a casa, per cui vi ricordo che gli sms verranno letti più tardi al 338-4146-682, ma se volete farci sentire la vostra presenza vi invitiamo caldamente a non farci sentire sole solette e a mandarci un trillino o magari a dirci la vostra su questa doppia manifestazione qui in radio allo 06-4917-50. E per voi... Pata pata, che mi sembrava... precisa proprio. Per le donne, pata pata. Vabbè, si prosegue. Begins to play. Saku, kuka, saku, pega, tiri. E allora rieccoci nuovamente a noi. Come dicevamo, appunto, la 194 è stata una conquista di civiltà e il cammino di questa legge è stato difficile e complesso, ed è un cammino che possiamo dire comincia molto prima naturalmente della sua stessa approvazione, e nasce infatti dalle lotte che le donne dagli anni 70 in poi hanno portato avanti con una certa tenacia e ostinazione che generalmente le contraddistingue, e una lotta che è sempre avvenuta quasi sempre in solitudine, combattendo appunto contro il potere e la protervia, vuoi della Chiesa, vuoi della borghesia, del ceto politico, eccetera, eccetera. E, con l'aiuto di un pezzo scritto da Emanuela Moroli per il quotidiano Liberazione domenica scorsa, vi proponiamo una breve cronistoria dei passaggi salienti del percorso politico che ha portato alle conquiste del movimento femminista. E già nel 1971 a Roma il Movimento di Liberazione della Donna tiene il suo primo congresso e annuncia che raccoglierà le firme per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare per l'aborto libero e gratuito e la liberalizzazione degli anticoncezionali. Si tratta della prima rivendicazione in assoluto di una maternità libera e consapevole. L'anno successivo, nel 1972, a Roma, nasce il Movimento Femminista Romano e si gettano le prime basi per una rete internazionale del separatismo politico. In quell'anno viene abolito l'articolo del Codice Rocco che punisce la promozione degli anticoncezionali, però resta in vigore l'articolo che invece ne punisce la vendita, quindi abbiamo una contraddizione intrinseca. Nel 1973 le donne a Padova cominciano a recarsi nei tribunali e si autodenunciano per il reato di aborto. Nasce il CISA, che era il Centro di Informazione Sterilizzazione e Aborto, viene pubblicato per la prima volta il quotidiano il primo giornale femminista, e l'anno successivo, nel 74, si registra il primo grande successo del movimento, appunto viene vinto il referendum che conferma la legge sul divorzio. Nel 75 si cominciano a raccogliere le firme per il referendum sull'aborto. A giugno si approva la legge che istituisce i consultori, che oggi appunto stanno cercando di ridimensionare, mentre nel settembre dello stesso anno entra in vigore il nuovo diritto di famiglia e con la strage del Circeo, sempre nello stesso anno, e qui ci corre l'obbligo naturalmente di ricordare una delle vittime, la sopravvissuta all'epoca, Donatella Colasanti, che è scomparsa proprio in questi giorni. Dicevo, con la strage del Circeo esplode il tema della violenza sessuale, mentre l'anno seguente, sulla spinta delle rivendicazioni dei movimenti femministi, a Bruxelles viene aperto il Tribunale Internazionale per i Crimini contro le Donne. Cominciano a sorgere i primi centri antiviolenza in molti paesi europei, mentre in Italia si dovrà aspettare il 1992 quando cominceranno ad aprire i primi centri antiviolenza a Milano, a Bologna e in altre città. Nel 77 il Senato respinge la legge sull'aborto e le donne scendono in piazza a Roma in 50.000. Speriamo che anche a Milano siano altrettante, forse anche di più. Alla fine di quell'anno le donne del Partito Comunista presentano un primo progetto di legge sulla violenza sessuale. E il 1978 è invece l'anno dell'approvazione della legge sulla tutela della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, quindi la legge 194. E nel 1980 il movimento femminista presenta in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale, accompagnandola con 300.000 firme. Queste firme vennero portate su una serie di carrettini, sulle carriole vennero portate fino al luogo di destinazione. Naturalmente le donne, per vedere approvata questa proposta di legge, dovranno aspettare 16 anni, quindi dal 1980, 16 anni, fino al 1996, quando finalmente la legge sulla violenza sessuale è stata approvata in questo paese. Sono passati quindi 10 anni, oggi nel 2006, sembra di essere veramente ritornate a 30 anni fa, insomma, e con le donne che sono appunto costrette a ritornare nelle piazze per difendere i propri diritti inalienabili e per ribadire la propria autonomia, la propria libertà, per riprendere quindi la parola su se stesse, sulle proprie vite. proprio ciò che i preti, i borghesi ben pensanti, gli squadristi in doppio petto vorrebbero annullare. Per questo appunto le donne scenderanno in piazza e faranno sentire la propria voce, nella convinzione che le conquiste di un grande movimento non saranno cancellate da una serie di colpi di coda di una classe dirigente arrogante e retriva. Quindi speriamo, abbiamo il desiderio forte e profondo che le donne in piazza a Milano si facciano sentire forti e consapevoli della propria forza. Sì, infatti. Ogni volta che leggo queste cose poi mi viene in mente sempre il nostro centro, no? Il centro femminista separatista, certo. Che ci dicono che ormai, non serve più. Problemi, sì. Noi invece continuiamo imperterriti come la gramigna, siamo difficili da estirpare, ad ogni modo per quello che serve. Noi crediamo che naturalmente serva e crediamo in questo modo di agire e di fare politica. Continueremo in questo modo. Allora, come brano avrei scelto Cesare Evora con Carnaval de São Vicente. São Vicente, nasce alegria, nasce sabura, manca puto fazer ideia, se na carnaval era amassar. Já me conchia São Vicente, nasce alegria, nasce sabura, manca puto fazer ideia, se na carnaval era amassar. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Mas sossego, cada um se tá bom, pode entrar. Qual que bafa cá tá faltando? Hoje é dia de carnaval. Não tem um pistinha mais sossego, cada um se tá bom, pode entrar. Qual que bafa cá tá faltando? Hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Neste dia de loucura. Guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse três dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. Eccoci qui, siamo di nuovo in diretta, siamo di nuovo in radio, sì, per forza. Noi siamo sempre siamo noi ancora qui inchiodate. Inchiodate, nonostante abbiamo avuto manco un trillino, diciamocelo. Diciamo, una vergogna. È stata a vedere la televisione, almeno Fiorentina Juve, almeno il risultato. Tutta a vedere Ballarò. Ballarò, esatto. Sì. Mentre noi siamo qui a sacrificarci per la causa. Esatto. Io ve lo ridico il numero di telefono, che magari non ve lo mi è sfuggito. Sì. Noi siamo allo 06 49 1750, se volete contattarci, dirci la vostra sulla doppia manifestazione del 14. E mentre abbiamo dato ampio spazio a quella di Milano, parliamo anche in breve di quella in di breve, Roma. Sì, in breve, poi capirete anche perché insomma tutti in PAX, però ognuno si faccia i PAX suoi. I PAX suoi. La seconda manifestazione infatti si tiene qui, proprio a Roma, in Piazza Farnese, dalle 14.30, e tutti in PAX il titolo. E pur riconoscendo il valore provocatorio di questa manifestazione, noi abbiamo aderito appunto, come dicevamo prima, a quella di Milano in particolar modo, perché come CLR e come centro femminista separatista restiamo ferme nelle nostre convinzioni riguardo l'utilità del PAX e ci rifacciamo a quanto già detto la scorsa estate, cioè che noi crediamo che si debba combattere contro i motivi della discriminazione della società patriarcale piuttosto che farsi assimilare da essi. Volere il PAX oppure il matrimonio, istituzione legalmente e socialmente privilegiata, significa voler ricondurre i nostri rapporti alla logica eterosessuale e patriarcale, logica verso la quale andrebbe rivolta la nostra lotta, perché è da sempre causa di sfruttamento delle donne. Secondo noi i diritti si devono basare sulle singole persone e non sulle coppie. La società, noi pensiamo che debba garantire a tutte e a tutti gli stessi diritti, principalmente il diritto all'esistenza, a prescindere dalla presenza o meno di una, un o più partner. Mi è piaciuto questo più. Oh, tutto si può dire. Ovviamente c'è al nostro interno un continuo dibattito su questi temi che rimette costantemente in discussione la posizione di distanza che esprimiamo. E abbiamo fatto pure un convegno lo scorso maggio insieme alle compagne di Fuoricampo, all'associazione Desiderande, separatista Desiderande, a cui ha partecipato e intervenuta anche l'università, la Libera Università delle Donne di Milano. Sono più gruppi di donne che a gran voce stanno ribadendo questo concetto, che i PAX non sono voluti da tutti. Certo. Diciamo più che da tutte, però nonostante ciò la nostra voce insomma viene un po' come al solito offuscata, per cui si continua a dire che tutto il movimento lesbico aderisce, tutto il movimento femminista, non sempre è così. Oh, detto questo, noi avremo finito sulla doppia manifestazione, abbiamo tanti appuntamenti e poi nell'ultimo quarto d'ora vorremmo leggervi anche un brano che è stato scritto, tratto da uno dei due libri scritti da Giulia D'Alena dell'associazione Desiderandi di Bari, che sono molto carini, quindi vi leggeremo un brano molto carino proprio sulle parate in generale, sulle manifestazioni in generale. E come concludiamo questa doppia manifestazione? Grazie a Sala Vida, con Joe Baez. Concludiamola con Joe Baez, ma naturalmente rinnoviamo l'invito a partecipare chi può alla manifestazione di Milano. Assolutamente, sì. Sabato, ve lo ricordiamo, alle 14.30 dalla stazione centrale fino a Piazza del Duomo. E chi vuole naturalmente partecipare alla manifestazione di Roma parteciperà alla manifestazione di Roma e vai con Grazie a Sala Vida. Allora, hai visto mai? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos tus celos, que cuando no negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando. hablado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Appuntamenti. E allora abbiamo detto gli appuntamenti sono molti, anche a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, quindi armatevi di penna e cominciamo subito col dirvi che domani, certo è un po' tardi per dirvelo, ma comunque lo diciamo lo stesso. Per chi è di Roma. Per chi è di Roma, domani appunto 11 gennaio alle 17.30 presso l'Associazione Culturale La Maggiolina a via Bencivenga 1 al centro Donna Lisa. Ci sarà un'assemblea sulla 194, consultori e autodeterminazione, appunto in preparazione della manifestazione del 14 gennaio a Milano. Il 16 gennaio, dalle 16 alle 19, presso la sede nazionale dell'UDI a Roma, in via dell'Arco di Parma, al numero 15, si terrà un convegno, un dibattito, dal titolo Costruire la cittadinanza politica, organizzazione politica di genere, ieri ed oggi, vizio di origine, con Giglia Tedesco, Patrizia Gabrielli e Vania Chiurlotto. Per avere informazioni potete chiamare lo 06 6865 884. Questo per quanto riguarda gennaio. Vi diamo anche l'appuntamento di febbraio, lunedì 13 febbraio, dalle 16 alle 19, sempre presso la sede nazionale dell'UDI. Si proseguirà con il convegno Ricostruire i rapporti, politica e ideologia, ieri e oggi, con Liliana Barca, Mirella Serri. E il numero del telefono è sempre lo stesso, ve lo ripeto, 06 6865 884, e potete anche consultare il sito dell'UDI nazionale, che è www.udinazionale.org. Ci racconti tu di Padova? Sì, invece il circolo lesbico Drasticamente di Padova, a via Gradenigo 8, organizza questa iniziativa, che è la Terrazza Drastica. Il 13 gennaio, quindi quando è? Dopodomani? Dopodomani. Dopodomani alle 21.30 Susanna Scrivo presenta il suo libro Con gli occhi a mandorla, sguardi sul Giappone dei cartoon e dei fumetti. Presentazione del manga lesbico Love My Life di Ebin Yamai. E si poi pronuncia seguire... così? Direi di sì, ma... Alle 22.30 DJ per una notte, porta la tua playlist e sali in console. 23.30 ancora serata di musica, e durante la serata verranno fatte delle proiezioni di manga giapponesi e degustazioni di anime. Cucinate come? Anim. A ragù. Anim. Le anim a ragù. Ah, le anim. Così si chiama, anim. Però non si sa mai come va pronunciato il giapponese. Dopo Versailles e Nobara, di cui tra l'altro parlammo anni addietro, molti anni addietro, proprio qui in trasmissione, non si sa più come si pronunciano. Sai cos'era Versailles e Nobara? La rosa di Versailles era Lady Oscar. Ah, ecco, vedi. Vedi, quando uno dice le cose in italiano si capiscono immediatamente. Certo. Per informazioni comunque potete contattare il Circolo Lesbico Drasticamente al 347-319-4483 oppure andare sul loro sito, che è www.drasticamente.it, oppure scrivere direttamente una mail info@drasticamente.it. Poi vedi che c'è pure dopo, il 18 gennaio alle 21.15 faranno la proiezione del film L'indiscreto fascino del peccato di Pedro Almodovar. Benissimo, invece a Bologna il 21 e il 22 gennaio le Fuoricampo organizzano un laboratorio di disegno e fumetto condotto da Maureen Lister. Per partecipare naturalmente non occorre saper disegnare, ma bisogna avere, come dire, un po' di idee interessanti, come dire, una certa creatività, che a me ad esempio manca, a te invece ce n'hai anche troppa, te invece pure. E dovrete portare, se decidete di partecipare a questo laboratorio di disegno, una matita HB, una matita H, cioè una matita morbida, una matita meno morbida, la gomma pane, che non si mangia ma cancella, un pennarello nero del tipo che usate abitualmente, tu Annalisa, in tutti i momenti usi, la carta A4 da riciclare perché si userà il retro, e Fuoricampo fornirà gli altri materiali. Abbiamo il costo del laboratorio, sarà di 30 euro, e abbiamo detto lo terrà Maureen Lister. Maureen Lister è appunto una compagna che per anni ha fatto parte del centro femminista separatista, è una compagna nata in Inghilterra nel 1949, via diciamo un po' di cose su Maureen, e ha frequentato il Manchester College of Art, ma ha ripreso i suoi studi artistici soltanto nel 1994, frequentando la scuola libera del nudo all'Accademia delle Belle Arti di Bologna. L'ha frequentata per 5 anni, e il suo primo fumetto lesbico, pensate un po', lo ha scritto dopo il convegno di Bologna del 1983, e ha impiegato appena 8 anni a finirlo, perché è una perfezionista. E per qualche anno dopo il convegno ha letto con molto entusiasmo i fumetti di un'altra nostra compagna del centro femminista separatista, Sara, che li pubblicava all'epoca sulla bollettina del CLI, e poi ha studiato anche Alison Bechdel in Off Our Backs, e è stata anche una delle organizzatrici della biennale Le donne ridono a Ferrara, che ha visto 9 edizioni dal 1985 al 2004, e poi ha cominciato a disegnare fumetti con più regolarità, quindi una volta al mese per la bollettina del CLI, invece che ogni 8 anni, insomma una volta al mese mi sembra una grande un grande traguardo. Le donne ridono è stato uno spazio prezioso per la pubblicazione delle opere delle fumettiste lesbiche, e tuttora sono raccolte nei cataloghi della mostra. E per le informazioni potete contattare Fuoricampo Lesbian Group sul sito www.fuoricampo.net, oppure mandare una mail a info@fuoricampo.net, oppure potete telefonare allo 051 34 99 69. L'ultimissima notizia, che è arrivata proprio oggi sulla nostra mail, è una rassegna di cinema dal titolo La sottile linea rosa, 30 anni di cinema italiano al femminile, al Cinema Trevi, cinematografia.it. Oppure, se volete, vi possiamo inoltrare la mail che abbiamo ricevuto con tutto il programma, e quindi dovete scrivere a noi. E quindi contatti@clrbp.it. Io non manderò mai una mail al nostro gruppo, perché non so mai qual è l'indirizzo, non so mai qual è il sito. Potete scrivere direttamente a Rosina, io le inoltro tutte le vostre mail. Inoltrate, scrivete pure, sicuramente non otterrete risposta. Allora, che altro dire? Che manca la nostra iniziativa, ma la stiamo preparando, stiamo pensandoci, a breve vi daremo le prossime date. Vi ringraziamo ancora del successo che abbiamo avuto lo scorso dicembre con la Lesbotombola, faremo qualcosina sicuramente a febbraio, oppure non si sa, forse faremo un grande 8 marzo sicuramente, ma è ancora presto, sì, i tempi non sono maturi, molto prematuro. Se avete idee potete scrivercele, oppure se volete noi siamo sempre qui in radio, e quindi approfitto per ricordarvi per l'ultima volta che abbiamo dimenticato il cellulare, quindi se volete potete chiamare direttamente qui in radio allo 06 49 17 50. Con voi staremo ancora quasi un quarto d'ora. Per adesso vi salutiamo, mandiamo la sigla finale, ma rimanete con noi perché non ve ne andate, perché vi leggeremo appunto questo racconto scritto da Giulia delle Desiderande in un libricino molto molto carino che ha pubblicato, che purtroppo è però in limitatissime copie, però se ci scrivete potremo farvelo avere. Allora, a dopo, Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.